Benvenuti su Casa Luneas, web radio podcast, dove le storie prendono vita e la musica è un viaggio. Mettetevi comodi, il racconto sta per cominciare. Oggi ci addentriamo in un testo che risuona con temi universali, ma lo fa in un modo molto molto personale. Parliamo de Il tempo del padre, un racconto di Virginia Luneas. Sì, un'autrice interessante. E il racconto è pubblicato da Casa Luneas, giusto? Esattamente, Casa Luneas nella collana Sottopelle. E il nostro obiettivo oggi è proprio andare un po', oltre la trama, per afferrare le idee centrali, quelle sul tempo, la memoria, i legami familiari, e la figura paterna, come viene presentata qui. Certo, e la collana Sottopelle, come suggerisce anche il nome, e come vediamo in generale nel lavoro di Casa Luneas, tende proprio a questo, mi sembra. Esplorare grandi questioni umane, ma attraverso narrazioni intime, che lavorano molto per suggestione, più che per affermazioni dirette. Sussurrano più che gridare, come si diceva nell'introduzione. Ma complesso, come il rapporto padre-figlio, le ferite familiari, senza clamore, ma con una grande, grande intensità emotiva. Allora, partiamo proprio dal titolo, Il tempo del padre. È affascinante perché il racconto chiarisce subito che non stiamo parlando del tempo dell'orologio, vero? Proprio così. C'è quella frase chiave, quasi all'inizio. È il tempo che non si vede, ma si sente. Come viene sviluppata questa idea? Di un tempo interiore, quasi. Emotivo. Il racconto lega questo tempo in modo, direi, indissolubile all'assenza e alla memoria. Il tempo del padre non è tanto quello passato insieme, diciamo, quanto quello segnato dalla sua mancanza. Ah, capisco. E dal modo in cui questa mancanza viene, poi, elaborata, vissuta. C'è una data simbolo, il 19 marzo, la festa del papà. Quella diventa un po' l'epicentro di questa temporalità così particolare. Vero, vero. Quel giorno si carica di significati completamente diversi nel corso della vita del protagonista. Prima l'attesa gioiosa da bambino, poi il silenzio carico di tensione dopo la separazione dei genitori. Già. E infine l'evento traumatico, no? La morte del padre, che avviene proprio incredibilmente il 19 marzo. Sembra quasi che la perdita finale vada a cristallizzare il passato in un modo nuovo. Proprio così. La morte qui funziona un po' da catalizzatore. Costringe a una rilettura di tutto quello che c'è stato prima. Le cose magari ignorate o non capite, di colpo acquistano un peso diverso. Pensiamo a quelle frasi del padre, quelle che tornano in mente al protagonista solo dopo la sua scomparsa, no? Tipo, quando perdi la voce impari a parlare con gli occhi. Oppure, quando perdi il tempo impari a viverlo. Frasi che lì per lì magari non avevano colpito, ma che dopo acquistano una profondità quasi impensabile prima. Sì, e c'è quel dettaglio, potentissimo secondo me, dei vecchi disegni. Quelli infantili che il protagonista ritrova, conservati dal padre. Come reliquie, dice il testo, sul comodino. Esatto. Fa pensare a una presenza, a un amore paterno che comunque persisteva, nonostante magari la distanza fisica, emotiva, imposta dalla separazione. È come se il tempo avesse conservato una verità che era rimasta nascosta. Esattamente. La memoria qui non è vista come un archivio passivo, ma come un processo attivo di ricostruzione del significato. Quei disegni, o anche quell'interpretazione un po' amara dei tre rintocchi di campana al funerale. Ah sì. Tre per l'uomo e due per la donna, come per chi resta e per chi viene tolto di mezzo. Ecco, mostrano come il protagonista usi la memoria per dare un senso nuovo, per riscrivere una narrazione che forse gli era stata imposta o che non aveva capito fino in fondo. Si tratta proprio di recuperare un tempo interiore, il tempo del padre, appunto. E questo ci porta, credo, a un altro tema centrale, le ferite lasciate dalla separazione e quelle dinamiche familiari complesse che spesso, restano nascoste, non dette. Il racconto usa un'immagine forte, la figura paterna come sottratta, tolta di mezzo. Come viene esplorato questo aspetto? Lo fa mettendo in luce, con molta delicatezza ma anche con chiarezza, l'impatto psicologico, profondo, sui figli. C'è un passaggio molto forte che allude a una forma di manipolazione, a quello che oggi forse chiamiamo alienazione genitoriale. Cioè? Il testo dice: ha lasciato che ci portassero via, ha lasciato che ci manipolassero. E noi, figli inconsapevoli, abbiamo subito quella normalità, arrivando persino a pensare che il padre fosse nel torto. Si suggerisce quindi che la percezione del padre sia stata distorta, influenzata dall'esterno. Il testo dice anche che è stato reso colpevole in genere e di genere. Accenna forse a certi pregiudizi sociali che a volte colpiscono i padri in queste situazioni. Se tutto è rimasto intatto, dice, i disegni, le foto, le lettere, ogni cosa al suo posto. E la nuova casa materna, percepita invece come un luogo quasi per dimenticare, per cancellare. Ecco, questo contrasto diventa emblematico di questa narrazione un po' contesa. La vecchia casa custodisce una verità che forse si voleva rimuovere. Quindi la scoperta che il padre in realtà non era cambiato, ma che erano stati loro, i figli, a essere stati portati via, allontanati. Questa diventa una rivelazione chiave per il protagonista. Cambia completamente la prospettiva sul passato. È una presa di coscienza, sì, dolorosa immagino, ma fondamentale. Mostra proprio come le narrazioni familiari possano essere costruite, a volte imposte, e come queste versioni della storia lasciano poi delle cicatrici profonde che influenzano l'identità adulta, le relazioni future. Certo. Non è un caso, infatti, che il protagonista si senta poi, nella sua stessa separazione, anni dopo, invisibile, proprio come forse si era sentito il padre. E qui arriviamo a un altro strato narrativo, molto interessante secondo me, la ripetizione dei cicli familiari. Il protagonista si ritrova a vivere una situazione speculare a quella del padre. Prova sulla sua pelle la stessa sensazione di invisibilità, di comunicazione interrotta. Questo parallelismo è assolutamente cruciale per il suo percorso di comprensione. Rivivere un dolore simile, il testo dice che cammina per le stesse strade, si sente inascoltato, diventa paradossalmente un ponte verso il padre. Incredibile. È attraverso questa sofferenza, condivisa, anche se differita nel tempo, che inizia a capirlo veramente. È un meccanismo psicologico anche abbastanza noto, no? Spesso ripetiamo inconsciamente certe dinamiche familiari finché non ne diventiamo consapevoli. Il fatto di diventare padre a sua volta sembra accelerare questa presa di coscienza. Nel racconto c'è un desiderio esplicito di rompere questo ciclo, di non ripetere gli stessi errori. Dice che cerca un modo per cucire con la voce ciò che era stato strappato con le carte. È un tentativo di riparare, di costruire la sua paternità in modo diverso. Assolutamente. La sua paternità diventa un apprendimento attivo, ma filtrato dalla sua esperienza di figlio ferito. Impara cosa significa essere padre proprio a partire da quello che a lui è mancato. E non si tratta di avere tutte le risposte, ma di esserci. Di presenza. Sì, di coltivare la relazione attraverso gesti semplici, quotidiani. Come dice il testo, no? Un pranzo cucinato insieme, una camminata senza meta, una carezza che non ha bisogno di spiegazioni. Si tratta di restare accanto mentre le domande cambiano. È molto bello questo. Molto. E la narrazione, poi, culmina in quella scena potentissima nell'aula di tribunale. Lì scopriamo che il protagonista è avvocato. Una scelta professionale, forse non casuale. Forse no, infatti. E assiste a un'udienza che riflette in modo quasi drammatico la sua storia. E le parole del giudice sono quasi un manifesto del racconto intero. Sì, quella frase è fortissima. Il tempo del padre non si misura in ore di visita. Si misura in carezze non date, in abbracci negati, in silenzi che gridano giustizia. Sposta completamente l'attenzione dalla quantità misurabile del tempo, le ore di visita appunto, alla qualità intangibile della relazione e al dolore causato dall'assenza forzata. Mette in discussione le metriche legali, a volte superficiali, di fronte alla realtà emotiva dei legami. E proprio in quel contesto, un figlio nell'aula trova il coraggio di denunciare la manipolazione subita. Rompe il silenzio. Questo, insieme alle parole del giudice, sembra quasi spingere il protagonista ad agire, a intraprendere quel viaggio non solo fisico, ma anche interiore, ascoltando la musica del padre. Ed è durante quel viaggio, mi pare, che avviene la rivelazione completa del paradosso. Lui, avvocato, che magari lotta per i diritti degli altri, si rende conto di essere intrappolato nella stessa identica dinamica di padre, sottratto, in cui si era trovato suo padre. Incredibile. E l'ironia più amara, forse, è vedere sua madre, che aveva contribuito alla sua alienazione dal padre, ora combattere contro le stesse tattiche manipolatorie, usate però dalla ex moglie del protagonista verso il nipote. Il ciclo è lì, evidente, doloroso. Una consapevolezza quasi brutale, direi, ma che sembra trasformare qualcosa in lui, vero? La memoria del padre smette di essere solo un peso, un dolore, e diventa una forza attiva, una guida quasi. Lo aiuta a vincere una causa, a ottenere una forma di giustizia. Dice proprio di sentire la presenza del padre accanto a sé, che lo attraversa e lo salva. È il momento di svolta definitivo, secondo me. La giustizia che viene raggiunta non è solo quella legale dell'aula di tribunale, ma è una giustizia emotiva. Una riconciliazione interiore con la figura paterna, con la propria storia. Il viaggio si conclude con una comprensione profonda. E la memoria diventa risorsa, diventa potere interiore. Il tempo del padre viene radicalmente ridefinito a quel punto. Esatto. La conclusione del racconto è quasi luminosa, nonostante tutto. Dice: il tempo del padre non è finito, è iniziato, con la memoria, con la giustizia, con l'amore. Il tempo che sembrava perduto o negato si trasforma in un'eredità viva. Un tempo interiore che si può attivare, si può vivere. E quella citazione finale... bellissima. Chi resta, insegna. Chi ama, consegna. Chi perde, salva. Chi tace, si alza. Riassume potentemente tutto questo percorso di resilienza, direi. Una chiusura che sottolinea proprio la capacità umana di trasformare la perdita in forza. Il silenzio imposto in parola, in azione. È un messaggio davvero potente, che credo risuoni ben oltre la vicenda specifica narrata nel racconto. E non possiamo non citare la dedica finale, che amplia ancora di più la portata, mi sembra. Dice: a chi ha perso un padre, per chi lo ha ritrovato, per chi lo è diventato, a chi ha imparato a diventare padre senza mai smettere di essere figlio, a chi ha il coraggio di parlarne. È quasi un invito, no? A rompere i silenzi su questi temi. Assolutamente. Quindi, per sintetizzare, Il tempo del padre di Virginia Luneas, pubblicato da Casa Luneas, ci offre davvero un'analisi stratificata, toccante. Esplora come la memoria modella la nostra identità, l'impatto devastante che certe separazioni conflittuali e le manipolazioni possono avere sui legami familiari. Ma anche la speranza. Ma anche la possibilità di comprendere e forse interrompere questi cicli dolorosi. E lo stile è quello tipico appunto della collana Sottopelle. Scava in profondità nelle emozioni, ma con una scrittura evocativa, mai urlata, molto suggestiva. E tutto questo, beh, ci porta forse a una riflessione finale. Cosa rappresenta veramente il tempo del padre per ciascuno di noi? È solo il tempo passato insieme, quello segnato sul calendario? O è forse un'eredità più complessa, fatta di presenza ma anche di assenza, di ricordi ricostruiti, di silenzi che parlano? Qualcosa che continua a vivere dentro, in qualche modo. E ancora, come le storie non dette, le fratture nascoste, le dinamiche inconsce delle nostre famiglie, come continuano a influenzare le nostre vite, le nostre relazioni, le nostre scelte. A volte, magari, ci troviamo a ripetere certi schemi, senza nemmeno capirne bene l'origine. Forse, come suggerisce questo racconto così potente, il passo fondamentale è proprio la consapevolezza. Guardare indietro, anche quando fa male, per comprendere i meccanismi che ci muovono. Riconoscere questi tempi interiori, come li chiama il racconto. E potrebbe essere proprio questo riconoscimento a darci poi la possibilità di scegliere un percorso diverso, di trasformare un'eredità che magari è fatta di dolore in una fatta di comprensione, forse anche di amore. La domanda che resta sospesa però è: una volta che vediamo questi cicli, abbiamo poi il coraggio di agire per cambiarli davvero? Una domanda importante. Grazie per averci accompagnato in questa esplorazione de Il tempo del padre. Alla prossima. Grazie per aver ascoltato Casa Luneas, web radio podcast. Se le parole vi hanno toccato, tornate a trovarci. Ogni racconto è un invito a restare ed a raccontarsi. Casa Luneas è l'arte di raccontare. Un luogo libero, dove le storie parlano al cuore. Se vuoi sostenere questo viaggio, lo puoi fare ora. Clicca su Dona ora con PayPal, nella home page di casaluneas.it. Ogni gesto è una scintilla che tiene accesa questa arte di raccontare e la voce di Virginia Luneas.